giornata importantissima, perché prima abbiamo avuto l'esperienza e la testimonianza di questi grandi attivisti, che evidentemente hanno, con il loro impegno, con la loro passione, hanno portato avanti lo sport e hanno raggiunto questi grandi livelli. Secondo me è stata una grande lezione di vita per tutti i ragazzi, ma non solo per i ragazzi, perché vi hanno dimostrato, vi hanno detto, vi hanno testimoniato cosa hanno fatto, i sacrifici che hanno fatto, l'impegno che hanno messo per raggiungere quegli obiettivi che si erano prefissati, ma anche per noi adulti, perché le cose che sono state dette, che sono state dette, sono state assolutamente importanti. Poi vedi, la violenza nello Stato, evidentemente chi fa la violenza nello Stato non ama lo sport, ama le immagini dello sport, pensa di trovare uno sfogo in ciò che vede, non è uno che partecipa. Se partecipasse, se si impegnasse nello sport, sarebbe meno violento secondo me. Quindi insomma è giusto che oltretutto dietro il messaggio dello sport venga fuori l'idea che lo sport è competizione sana, è costanza, è impegno, e sacrificio in certi momenti, ma è soprattutto solidarietà. Si vince insieme, si perde insieme, si fanno degli errori, perché nella vita è così e anche nello sport è così.